e vengono a partecipare a festival. Ci dai tutti i riferimenti web? Certo, www.festivalmixmilano.com. Siamo anche su Instagram, su Twitter e Facebook, sempre come Festival Mix Milano. Tutta la programmazione da ieri, anzi da lunedì, è completa sul sito, quindi basta andare lì e controllare. La cosa più importante è che tutta la programmazione, ossia quindi tutti questi 60 titoli in programma, sono disponibili semplicemente con una tessera associativa. Quindi o tramite produzione dal basso fino a stasera si può fare la tessera con una donazione di 15 euro, oppure lì in teatro, sempre 15 euro, una donazione all'Associazione Culturale Mix Milano che organizza il festival, con questa tessera l'accesso è gratuito a tutte le programmazioni, tutta la programmazione del festival, incluso gli eventi Mix Off. Abbiamo incontri con autori che presentano i libri, abbiamo lezioni di yoga e tanti altri eventi, oltre a mostre fotografiche, ossia è una programmazione molto ricca. E allora ricordiamo la 33esima edizione del Festival Mix Milano di cinema gay, lesbico and queer culture al Piccolo Teatro Strehler dal 20 al 23 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Rafael Maniglia. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ci aspettiamo sul sagrato.